Signor Palanca, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Grazie mille innanzitutto per essere qui con noi. Cioè, grazie poi, a voi per avermi chiamato. Con me direi, perché sono da solo, però facciamo che siamo io e lei. Io vorrei ricordare, seguo il calcio, nel 1980 avevo 5 anni e quindi non mi ricordavo, diciamo, di memoria mia quello che era successo. E quindi ho chiesto a Gigi Garanzini qui in redazione chi era esattamente Massimo Palanca e lui mi ha raccontato, signor Palanca, che Sandro Ciotti di lei ha detto uno dei migliori sinistri d'Europa. Ha esagerato un po', vero? no, da lei mi aspettavo che tenesse su. Era un amico, Sandro Ciotti, perciò era sempre prodigo di complimenti verso di me. Allora, faccio un veloce, chi era Massimo Palanca? Massimo Palanca era un numero 11, lei, signor Palanca, perciò sì. Una seconda punta? Sì. Cioè, non era il centravanti, quando c'era il 9 e l'11, insomma. Quando c'era l'9 e l'11, ero l'11, anche perché il fisico non mi consentiva di essere un 9. Perché era gracilino? Sono 1,71 m, insomma, ecco, non è che potevo andare a competere con stopper, allora c'erano gli stopper di 1,90 m, insomma. Però mi defilavo e cercavo di aggirarli e usare un po' l'astuzia, ecco. Quindi lei si trovava davanti il terzino destro, giusto? Sì, il 2. Il 2, cioè quindi si parla di marcatura uomo. Sì, come no. Lei di fatto era marcato sempre dal solito uomo, sempre, più o meno. Sì, mi seguiva dappertutto, se andava a destra, a sinistra, ritornava indietro, ero sempre seguito. Ma quindi, mi perdoni, si creava un legame con questi tizi? Perché per 90 minuti lei ce l'aveva addosso. Sì. Cioè, vi dicevate delle cose? A volte, però devo dire che verso di me c'è stata sempre correttezza. Lei giocava nel Catanzaro, ha giocato con Ranieri anche, l'allenatore dell'Inter, l'attuale allenatore dell'Inter. 7 anni abbiamo giocato assieme. Senta, giusto per ricordare un altro paio di cose, nell'80-81 lei è stato è arrivato secondo nella classifica capocannonieri, giusto dietro a Roberto Pruzzo, ma davanti ad Altobelli, davanti a Graziani. Sì, è vero. 13 gol all'epoca. Sì, allora però i campionati erano formati da, il campionato di Serie A era formato da 16 squadre. Chiaro, cioè erano ridotti. E questa cosa che lei aveva il 37 di piede, è vera? Sì, è vero. Quindi ce l'ha ancora? Non cioè, mi è cresciuto, sì. Senta, che cosa fa un calciatore nella vita? Lei ha più o meno, cosa, 58 anni, signor Palanca, adesso? Sì, ho 58 anni. Cosa fa un giocatore che negli anni 80 ha giocato in Serie A, ha vinto, è stato vice capocannoniere, che però appunto a calcio ci ha giocato negli anni 80, adesso, nel 2011? Ma io ho cercato di avere sempre una vita tranquilla, una vita normale. Adesso, come lavoro, diciamo che con mia moglie, insomma, abbiamo un negozio di abbigliamento a Camerino, in provincia di Macerata. Okay. E in più mi diletto un po' ad allenare la rappresentativa dei giovanissimi del comitato marchigiano. Lei vive a Camerino, giusto? A Camerino, sì. Senta, io ho sentito una sua intervista molto divertente in cui raccontava che quando il Catanzaro, perché lei il meglio l'ha dato a Catanzaro, giusto? Sì, più sì. O meno. Quando il Catanzaro è passato dalla Serie B alla Serie A, faceva il paragone tra quando vincono lo scudetto negli ultimi anni e i giocatori vanno in giro sui pullman doppi scoperti, e invece a voi vi portarono a Catanzaro su un trenino per bambini in giro per la città. Sì, abbiamo attraversato la città su un trenino per bambini, questo è vero. Mi perdoni, però per renderle completamente merito, visto che arrivano un sacco di messaggi che mi dicono di dire una delle cose più importanti che si ricordano riguardo alla sua carriera, è che lei ha fatto 13 gol direttamente da calcio d'angolo. Sì. Non tutti in Serie A, chiaramente. No, certo. Però in sostanza dalla bandierina di sinistro, giusto? Perché lei è sinistro. Sì, mancino, sì. Gioca ancora a calcio, no? Sì. Magari adesso ho ridotto un po' il campo, perché a 7 gioca? Il campo di 100 e passa mezzi comincia a essere lungo anche per me. Senta, io però vorrei fare, e poi la ringrazio e la saluto, però veramente, visto che ha capito qual è la storia, no? Che di fatto grazie a un suo gol, lei ha, cioè quel suo gol che è, diciamo, per lei probabilmente è ibernato nel tempo, no? Rimane in quella giornata, è chiuso nella sua memoria, di fatto ha influito però nella vita di una persona che grazie a quel gol ha fatto vincere la sua famiglia una schedina, e poi la famiglia si è trasferita, hanno fatto un mutuo, e parte della vita di questa persona persona in qualche modo dipende dal suo gol. Allora io vorrei semplicemente, se l'abbiamo risentito, Alessandro, che è la persona che ha vinto, ha fatto 13 grazie al suo gol, la salutasse e la ringraziasse. Forse la prima volta che una persona che ha fatto un 13 ringrazia direttamente un calciatore. Pronto Alessandro? Eccomi qua. Ciao, grazie di nuovo per essere qui. Ciao. Eri in riunione ma ti abbiamo recuperato. C'è Massimo Palanca al telefono per te. E vai. Ciao Alessandro. Ciao. Ciao Palanca. Non penso che lui abbia fatto 13 soltanto per me, ecco, perché lì comunque erano 13 le partite, insomma. Sì, ma l'unico 2 è stato quello.